esatto, verissimo. Allora salutiamo tutto lo staff Ziguli che sono quasi sempre all'ascolto e questo ci fa enormemente piacere, un grazie a loro, un grazie a voi amici che siete anche voi, spero, all'ascolto di Rock FM. Superate da 5 minuti le ore 9, iniziamo l'appuntamento di martedì 20 di maggio 2008, Marco Gravelli con voi, inizia questo nostro spazio di 3 ore da trascorrere insieme, poc'anzi salutando Ariel, abbiamo parlato di torte eccetera e già arriva una lunga lista. Mike 198, io pensavo di farvi una sucker fatta in casa, dato che sono un rocker ma cucino anche bene. Mike patente 198, la sucker è accettata da parte di Ariel e da parte penso di altri. Invece Ivan dice, porto io davvero, datemi giorno e ora, lavoro in una grossa pasticceria di Milano, ovviamente offro io, grazie, fatemi sapere, sarei orgoglioso. Guarda, qualsiasi giorno intorno a mezzogiorno, così giochiamo giorno e mezzogiorno, però ci sono anche gli altri, è giusto condividerla un po' tutti quanti insieme. Grazie Ivan, grazie Mike 198, un abbraccio e buona giornata anche a Lara. Ebbene, bene, bene, bene, allora possiamo dare, dopo questi primi saluti, anche il numero di SMS che, come vedete, è già attivo. Molti lo conoscono, ai 335-100-7777. Questo vi servirà nelle nostre 3 ore per vincere i biglietti per il concerto di Tarja Turunen, che si terrà domani a Milano. Ne abbiamo ancora un tot e ve li regalerò tutti io, perché se aspetto i miei colleghi, nessuno vi regala mai biglietti, soltanto Marco Gravelli al mattino. Non so come mai, non c'è più voglia di far nulla, vabbè, capita. Poi la mail marco@rockfamily.it, saluto gli amici di Rock Family che sono già attivi, anche loro presenti, gli auguro naturalmente buona giornata tra un lavoro e l'altro, sono sempre in super attivi. Volevo vedere se oggi compie gli anni qualcuno, esatto, tra quelli iscritti, MKA666, 35 anni, tanti tanti auguri, perché anche per quest'oggi proporremo i vari compleanni legati agli artisti rock e abbiamo anche qualche notizia dall'almanacco del rock. Con le note di I Got a Line on You Babe, è il primo Trisdassi che parte con questi Cure, con il loro

going down, when the smoke is going down, dalla Germania gli Scorpions. In precedenza abbiamo ritrovato Caroline, Status Quo e Forest Day Cure. E troviamo anche il primo compleanno di quest'oggi legato al mondo del rock. Ma prima, tramite fax, mi giunge questo, appunto, questo fax da parte di Mira. Dice: oggi è il mio compleanno, il primo a farmi gli auguri, bellissimi tra parentesi, è stato Paolo, che è un grande. Quando ci siamo conosciuti qualche mese fa, tra le prime cose che abbiamo scoperto è quella di avere in comune la passione per la musica e per Rock FM. Ora vorrei anche i vostri auguri, così il mio compleanno sarà ancora più piacevole. Grazie e bacioni a te Mira, quindi tanti tanti tanti auguri. E magari ti fa piacere che quest'oggi, 20 di maggio del 1944, condividi il compleanno con un altro grande artista della musica, una grande voce, quella di Joe Cocker. Il compleanno del giorno. Rock and roll. Il grande Joe Cocker con le note di Delta Lady nasce in questa giornata, 20 di maggio 1944. Da Mad Dog and Englishman abbiamo ascoltato questa coinvolgente e trascinante versione appunto di Delta Lady. Saluto al Sogliola che dice: mi sono stupito Marco, sono in quel di Grosseto, pensavo di non sentirvi e invece eccovi. Dai, goditeli in questi ultimi giorni, anche in quelle di Grosseto ci puoi seguire. Un salutone all'immancabile lo Sbarone e un abbraccio anche a Frank. All right. single life.